Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciar, ma io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, mai niente lo sai, separarci un giorno potrà. Che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia.